Salva Danaio di Deborah Rosciani. E da Deborah Rosciani buongiorno a tutti, bentrovati a Salva Danaio. Eccoci al nostro consueto punto della situazione sui mercati finanziari. Abbiamo delle giornate piuttosto interessanti sui mercati. Da una parte le borse che vanno avanti per la loro strada e adesso sono completamente proiettate sulle trimestrali e i conti societari. Dall'altra parte il petrolio che, lo ricorderete bene, nei giorni scorsi ha riacciuffato gli $80 spinto dal dollaro sui minimi dell'anno verso l'euro. Tutto questo almeno accadeva fino a venerdì, perché ieri le cose sono andate in maniera molto diversa e poi torneremo ovviamente anche un po' ad approfondire quello che è accaduto nella giornata di ieri. Abbiamo anche d'altro canto da osservare cosa accade sulle obbligazioni governative, per esempio con i tassi di interesse sui minimi livelli storici rimangono al momento molto poco appetibili per tutti, soprattutto le bassissime scadenze. E anche se in leggero miglioramento, in sostanza lo scenario economico di fondo rimane recessivo. Quali sono allora le scelte di portafoglio indicate in questo momento dai gestori? Coerenti con il quadro economico generale, ma anche coerenti con la propensione al risparmio e all'investimento dei risparmiatori seguiti. Quali settori stanno interessando maggiormente piccoli e grandi investitori? Stamattina interrogheremo a lungo Giuseppe Ganci, senior analyst di Compass Asset Management, oltre che gestore azionario europeo. Ganci, buongiorno e benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. E buongiorno e benvenuto anche a Nicola Trivelli, direttore degli investimenti di Sella Gestione. Bentornato. Buongiorno a tutti. Grazie. 800 24 00 24, il numero verde per le domande degli ascoltatori che naturalmente potranno suggerirci anche i temi da approfondire questa mattina. Spero di averli detti tutti. Quelli che vogliamo toccare sono soprattutto quelli che hanno movimentato le ultime sedute di borsa, e 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. Prima di approfondire un po' il quadro di periodo un po' più ampio, vediamo cosa sta accadendo stamattina. Ieri, come abbiamo ampiamente ricordato nel corso dei collegamenti di borsa di questa mattina, le borse europee nella giornata di ieri, per l'appunto, hanno avuto uno scivolone soprattutto sul finale, determinato, dicono gli operatori sui mercati, un po' da questo cambio di rotta repentino ed improvviso che ha avuto il dollaro sull'euro, che ha spinto anche il greggio a ridimensionare un po' la sua corsa recente. Stamattina sul mercato valutario l'euro in rapporto al dollaro è a 1,48,83, per cui c'è stata una vigorosa ripresa del biglietto verde rispetto alla moneta unica europea. Le borse stamattina sono ripartite in maniera piuttosto indecisa, adesso invece il quadro è migliorato, non c'è un rimbalzo totale rispetto alle perdite di ieri, ma comunque un rimbalzo di circa mezzo punto percentuale a Parigi, a Francoforte e a Londra. Non vanno così le cose invece a Piazza Affari, che è ancora in calo, è ancora in rosso, meno 0,06% sul FTSE MIB, sul principale paniere di Piazza Affari. FTSE MIB che peraltro stamattina è arrivato a perdere quasi un punto percentuale. Tutta colpa delle banche, che risultano i peggiori titoli appunto della giornata per tutta una serie di motivi, e per motivi italiani ma anche per motivi americani. Intanto le prestazioni, poi vi racconto un po' quali sono le ragioni che hanno spinto così al ribasso stamattina i titoli bancari a Piazza Affari. Banca Popolare di Milano meno 3,64, Banco Popolare meno 3, Mediolanum meno 2,11, Monte dei Paschi meno 1,73, Unipol meno 1,54, e avevamo delle perdite abbastanza significative anche per Intesa e per Unicredit, che adesso hanno un po' migliorato, ma Piazza Cordusio continua a perdere oltre un punto, Intesa meno 0,5, Ubibanca meno 0,7%. Allora abbiamo una SIM che ha ridotto il giudizio sul settore in Italia, Equitas SIM, il giudizio è passato da overweight, cioè da sovrappesare, a neutral, giudizio neutrale. Questo ha abbattuto appunto le performance di stamattina, ma ci sono anche delle indiscrezioni che arrivano da Wall Street e poi non mancheremo di commentarle con i nostri ospiti. Bank of America, una delle più grandi banche commerciali americane, che ha diffuso peraltro la trimestrale negli ultimi giorni, starebbe studiando il rimborso dei 45 miliardi di aiuti governativi ricevuti appunto dall'amministrazione americana attraverso un aumento di capitale, e allora questa potrebbe apparire, almeno secondo il mio giudizio, una buona notizia. A quanto pare invece il mercato non la giudica tale, ma poi insomma ne parleremo. Titoli con il segno più invece a Piazza Affari stamattina: Pirelli più 2%, Ansaldo più 1,46, Mediaset più 1,40, Saipem più 1,16, oggi pubblica i conti della trimestrale. trimestrale Eni, alla vigilia della pubblicazione dei conti, guadagna un punto, Bulgari più 0,9, Impregilo più 1,11. Questi sono un po' i principali temi della giornata. Commenteremo anche questa notizia apparsa stamattina sul Corriere della Sera, secondo la quale ormai ha preso forma in maniera più concreta rispetto alle ultime indiscrezioni l'operazione bond obbligazioni ai risparmiatori di Telecom Italia. L'emissione ammonterebbe a circa 2 miliardi di euro, il termine sarebbe fissato al 31 marzo del prossimo anno, ma insomma anche questa è una buona notizia per i risparmiatori o meno, e cercheremo di capirlo. Ribadisco, 800 24 00 24, il numero verde per cominciare a prenotare già i vostri interventi. Noi intanto ci risentiamo questa scheda, come sempre curata da Gaia Romani, nella quale ripercorriamo un po' i temi che hanno contraddistinto le ultime sedute di borsa. Nessuna grande correzione all'orizzonte per i mercati da qui a fine anno. Questa perlomeno è l'opinione condivisa dalla maggior parte degli esperti, secondo i quali l'impostazione di breve periodo resta dunque positiva. È però sulla consistenza di fondo del rally che le posizioni divergono. Da qualche mese a questa parte, molti osservatori ripetono infatti che i mercati azionari hanno corso troppo. Il paniere delle blue chip di Piazza Affari da inizio anno ha guadagnato oltre il 24%. Ma dai minimi raggiunti lo scorso 9 marzo ha quasi raddoppiato il suo valore. L'attesa per una correzione, anche se limitata, non suona dunque strana, anche perché a crescere non sono stati soltanto i mercati. La liquidità si è riversata infatti su tutte le classi di investimento. I titoli di Stato sono andati a ruba ovunque, così come i corporate bond, tornati alla ribalta. Ma anche le materie prime, guidate da oro e petrolio, quest'ultimo ormai intorno a quota $80 al barile. Allo stesso tempo, a dominare la scena internazionale sono state le valute, con un euro sempre più forte, tornato oltre la soglia di 1,50 nei confronti del dollaro ai valori dell'agosto 2008. Tuttavia, come indicano gli esperti, per vedere un ritorno definitivo del toro bisognerà aspettare un recupero dei fondamentali. Un importante segnale è arrivato nelle ultime settimane dalle trimestrali provenienti dagli Stati Uniti, superiori nella maggior parte dei casi alle stime degli analisti. 800 24 00 24 il numero verde per i vostri interventi. Vedo già qualcuno che scalpita il nostro centralino, così come lo fa al 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. Allora, cominciamo un po' con qualche considerazione rispetto magari proprio a questa mattinata che vede di nuovo fortemente penalizzati i titoli del settore bancario. Io ho parlato prima prevalentemente di Piazza Affari, ma vedo che in tutta Europa ci sono cali che sono anche piuttosto significativi. In Germania Commerzbank meno 6,5 punti, Aareal Bank meno 5,68, a Londra Royal Bank of Scotland meno 3,96%, Barclays meno 2,25, Lloyds meno 3, Schroeders meno 2,37, e a Parigi vanno un po' meglio le cose perché il peggior titolo è il Crédit Agricole che perde 1,5 punti, il peggiore è Renault, quindi va male il settore automobilistico prevalentemente appunto a Parigi. Cominciamo con Giuseppe Ganci, visto che tra l'altro la materia delle azioni europee è il pane per i suoi denti di tutti i giorni. Giuseppe Ganci, Compass Asset Management, le chiedo un po' un giudizio rispetto a questa reazione del comparto bancario europeo alle indiscrezioni secondo cui Bank of America, una questione quindi che riguarda una società americana, starebbe studiando di rimborsare 45 miliardi di aiuti governativi, cosa che peraltro ieri si è appresa anche in Europa per la questione di ING in Olanda, che lo stesso secondo l'imposizione di Bruxelles deve ristrutturarsi pesantemente e restituire almeno metà degli aiuti ricevuti dal governo olandese. Ma questa non è una buona notizia, perché penalizza così tanto il comparto? Allora, diciamo, partiamo da una premessa, che il settore bancario è stato uno di quei settori dove gli investitori istituzionali sono rientrati dopo un periodo di assenza, sovrappesandolo rispetto ai pesi di mercato, e quindi diciamo è servito a cavalcare questo rally per molti gestori, e diciamo questa settimana, la scorsa e poi l'inizio di questa, ci siamo un po' risvegliati da questo lungo sonno, a mio avviso, perché sia da Bank of America che da ING sono arrivati, diciamo, è arrivato sostanzialmente lo stesso segnale, cioè che l'uscita dai piani di aiuti governativi avrà un costo per le banche, o in termini di diluizione, quindi un aumento di capitale che diluisce il peso del singolo azionista all'interno dell'azionariato, o come nel caso di ING, che è una manovra molto complessa che insomma, si articola attraverso la cessione delle attività assicurative, certo. Sì, e anche un aumento di capitale, andando appunto a vedere il costo per l'azionista al giorno precedente all'annuncio di questa manovra è molto alto in termini di diluizione, in termini di appunto mancato diciamo guadagno, in termini di utili che vengono ricostruiti dalla società per azione. E quindi stamattina i titoli più penalizzati, così come era stato nelle sedute precedenti, sono stati quelli dove gli aiuti governativi sono stati più forti e a livello di capitale azionario o diciamo subordinati leggermente senior rispetto all'azionario, ma comunque che facevano parte del capitale di rischio della banca. Quindi in sostanza le banche che più aiuti avevano ricevuto sapevano che prima o poi avrebbero dovuto riorganizzare la propria gestione per restituire quanto avevano ricevuto appunto dai governi. Il punto è che questa restituzione, questa ristrutturazione costa molto di più rispetto a quanto non fosse stato preventivato, detto proprio in maniera molto sintetica, Ganci. Esatto, ed erano anche quei titoli dove appunto per il loro profilo più speculativo c'erano stati i rialzi più forti guadagni. E di conseguenza certo stamattina c'è stata l'immediata corsa a prendere beneficio. Io tra l'altro, siccome non sentiamo bene Ganci adesso, l'avviso Giuseppe Ganci che chiudiamo la telefonata, la ripristiniamo e quindi spendo gli ultimi questi due minuti di tempo che mi rimangono prima della pausa con Nicola Trivelli, direttore degli investimenti di Sella Gestioni, se vuole anche lui naturalmente un commento su quello che di nuovo accade al settore bancario stamattina in Europa, ieri a Wall Street, perché anche ieri Wall Street è stata disturbata proprio da questo tema, ma più in generale le chiedo se è d'accordo con tutti quegli osservatori che da almeno la scorsa estate ripetono che i mercati azionari hanno corso troppo, più del lecito rispetto ai movimenti dell'economia reale, o seppure è un rialzo in sostanza che convince. Che cosa ne pensa? Ma direi che innanzitutto credo che i mercati azionari stiano ragionando con un riferimento temporale abbastanza breve, cioè da qui a fine anno, dove presumibilmente i dati aziendali anche nell'ultimo trimestre saranno ancora buoni, quindi da un certo punto di vista abbiamo una giustificazione a questo forte rialzo dopo la fortissima correzione di marzo. C'è da dire che lo scenario 2010 è sicuramente molto più incerto e forse se valutiamo anche i rischi macroeconomici per il 2010 le valutazioni cominciano a essere diciamo in linea o in alcuni casi addirittura un po' troppo avanti. Il settore finanziario è proprio uno di questi casi, se guardiamo gli utili immediati, cioè dei prossimi due trimestri, la parte mercati e quindi il buon andamento dei mercati finanziari dà ancora un contributo decisamente positivo. Se guardiamo un pochino più in là ai rischi ancora sul lato crediti, il margine di interesse che praticamente si è azzerato, la qualità degli utili sicuramente ci mette qualche dubbio in più. Quindi credo che anche la correzione di questi giorni proprio sul settore finanziario sia legata innanzitutto alle forti performance dei mesi scorsi, dall'altro a maggiori incertezze sul quadro diciamo di medio periodo e sull'incertezza sugli aumenti di capitale che sicuramente le banche dovranno fare, perché insomma sembra che nella regolamentazione si vada a inserire l'obbligo di avere un maggior capitale a disposizione, quindi questo sarà sicuramente diluitivo nel futuro. No, tra l'altro c'è anche da ricordare che, come dire, questa ripresa del mercato è stata determinata anche dalla fortissima liquidità messa in circolazione dalle banche centrali, per cui forse anche questo potrà spingere alla riuscita degli aumenti di capitale che mediamente non sono proprio delle buone notizie per le società che vi devono fare ricorso. Allora, noi ci fermiamo adesso per solamente qualche istante, pubblicità, meteo, poi torniamo a commentare un po' le tendenze di borsa. Ci piacerebbe fare qualche ragionamento sulle società europee quotate, questo euro forte, quanto pesa, quanto peserà questo petrolio, oppure quanto disturba l'andamento delle quotazioni del greggio, il tema delle materie prime. Salva Danaio, stamattina siamo ritornati sui mercati finanziari internazionali, che d'altronde dobbiamo un po' analizzare, visto che molti di voi stanno pensando un po' di riposizionare tutto quel risparmio che è stato accantonato negli ultimi mesi, magari in conti di deposito, in strumenti fortemente liquidi, in strumenti monetari. È il momento buono per riportarsi in borsa. Ovviamente molti investitori hanno già colto le occasioni che si sono aperte da marzo, quando le borse sono finite sui minimi. Qualcuno ha mancato l'occasione, qualcuno adesso spera che dopo quel forte forte rialzo che si è scatenato da marzo, le borse possano tornare a correggere, a scendere per riprendere adesso qualche posizione e quindi riconquistare qualche occasione persa nelle settimane appunto di rialzo, in particolar modo poi dalla scorsa estate. Come sentivate dai nostri esperti di questa mattina, Giuseppe Ganci di Compass Asset Management e Nicola Trivelli di Sella Gestioni, lo scenario che si può dipingere sembra essere ancora prevalentemente positivo per il mercato azionario da qui alla fine dell'anno. Molta più incertezza invece pervaderà l'atteggiamento degli investitori nel prossimo anno, perché le aziende, molte delle quali hanno ricevuto tanti aiuti statali, dovranno restituirli e ristrutturarsi fortemente, e quindi lì insomma ci sarà proprio una vera e propria prova dei fatti, no? Cominciamo con un ascoltatore, poi andiamo ad analizzare magari sì il tema dell'euro, dell'euro forte o del dollaro, anzi, che continua a scivolare. Cominciamo con Daniel da Lucca, che saluto. Daniel, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, vorrei sapere cosa ne pensate dei rialzi che ci sono stati ultimamente nel settore auto, cioè sì, se questi rialzi secondo voi possono continuare anche qui a fine anno, oppure se ci saranno dei ridimensionamenti. Quindi grazie a lei. Quindi settore auto, Ganci, cominciamo con lei. Magari allora possiamo tra l'altro operare, no, un collegamento tra l'andamento dei produttori di automobili in borsa europei e l'euro, perché sicuramente fanno un po' fatica, no, a commercializzare in questo momento data la valuta forte. Un po' meglio forse potrebbe andare per le cose e per le aziende americane se non fossero così disastrate, tanto che a inizio novembre Fiat presenta proprio peraltro il piano Chrysler. Qual è la sua visione su questo settore? Allora, sul settore auto, per rispondere al nostro ascoltatore, diciamo molto sinceramente devo dire che è un settore che performa benissimo nelle fasi di recupero del mercato molto forte come quella che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo, e poi nel medio-lungo periodo purtroppo delude per dei motivi che sono, diciamo, rintracciabili proprio nella struttura di questa industria, che sono ormai decenni che ha un eccesso di offerta di auto rispetto all'effettiva domanda e una competizione veramente intensa su tutti i segmenti di mercato. Tra l'altro una situazione, come dire, mi scusi se la interrompo, che è stata anche al centro di una presa di coscienza molto forte di Sergio Marchionne di Fiat, che da tempo lo dice, insomma, stiamo producendo troppe auto, nonostante la domanda anche sui paesi emergenti sia sicuramente molto alta, ma è comunque c'è un eccesso di offerta, come lei diceva, evidente a tutti. Sì, sì, insomma, guardando al settore auto anche negli anni migliori o negli ultimi anni buoni come sono stati il 2006, il 2005 anche, molte delle società non riescono a ripagare il costo del capitale pur in una situazione, diciamo, molto, molto buona dal punto di vista di domanda. Quindi l'investitore nel settore auto deve essere cosciente di avere comunque un'esposizione verso un settore che nei mercati molto forti va bene, quindi una posizione speculativa, e in mercati meno direzionali, ma anche se impostati al rialzo, probabilmente dei titoli industriali con migliore marginalità, con fondamentali più solidi, possono dare più soddisfazione. Quanto disturba l'euro a questi livelli case come Renault, Peugeot, Citroën, come BMW, Volkswagen, come la stessa Fiat? Ma soprattutto le tedesche, BMW, Daimler, diciamo, soffrono dell'euro forte, soprattutto BMW ha una consistente presenza negli Stati Uniti in termini di vendite, e, diciamo, la crisi economica e l'euro forte sicuramente non l'aiutano. E, il primo paese, diciamo, all'interno degli Stati Uniti dove vendono è la California, che sicuramente tra i paesi che fanno parte degli Stati Uniti è quello che a livello di bilanci pubblici e condizioni economiche, insomma, non se la sta proprio passando bene, per volerla sintetizzare in maniera semplice. Allora vorrei tornare a Nicola Trivelli, se vuole naturalmente gli assegno anche un commento rispetto al settore auto, che comunque appassiona i nostri ascoltatori. C'è anche un'altra notizia da commentare, per la verità, relativa a questa mattina. C'è stata un'asta del tesoro di bot CTZ per il titolo a sei mesi, per il bot a sei mesi. Ci registrato un lieve rialzo del rendimento allo 0,62-80%, per il CTZ anche un lieve aumento all'1,46%. Trivelli, magari partiamo da qua, se lo ritiene, sono segnali impercettibili che possono destare qualche interesse e che possono in qualche maniera nascondere, celare un'inversione di tendenza rispetto ai rendimenti dei titoli di Stato italiani? Ma direi nel breve termine no, nel senso che nei prossimi mesi avremo ancora tassi sulle scadenze più brevi molto molto basse, per un semplice motivo tecnico, cioè la banca centrale sta tenendo la liquidità ad ampia disposizione a basso costo di tutto il sistema. Vedremo poi nel successivo operazione di dicembre se manterrà il tasso dell'1% per l'accesso alla liquidità. E questo conseguentemente porta sì che tutti i titoli in scadenze molto brevi rimarranno sotto certi livelli, quindi purtroppo per alcuni investitori abituati ai tassi bot di qualche anno fa il tempo per i tassi ancora a rialzo dovranno aspettare ancora parecchi mesi. Ecco, secondo lei quanto potrà durare ancora questa politica monetaria così ampiamente espansiva, magari soffermandoci alla situazione in Europa che è quella che ci interessa più da vicino? Ma credo ci sia un atteggiamento graduale di uscita da questa ampia liquidità con diciamo una serie di messaggi dati al mercato e agli operatori. Credo che gli effetti veri e propri li vedremo molto probabilmente nel secondo semestre del prossimo anno. Non mi aspetterei invece movimenti sui tassi ufficiali fin verso la fine del prossimo anno, quindi forse l'ultimo trimestre. Ecco. Però altra cosa sarà invece vedere pian piano drenare liquidità dal mercato, e questo potrà avere degli effetti, ecco, tipo rialzo dei tassi sulla parte più breve gradatamente, dall'altro meno liquidità disponibile, quindi forse un'apprezzatura del rischio forse più adeguata rispetto alla fase attuale. Ecco. 800 24 00 24, potete continuare a prenotare i vostri interventi. Io vedo che state telefonando, ma su temi che questa mattina magari non sono perfettamente coerenti con l'argomento che abbiamo deciso di analizzare con i nostri ospiti, cioè in sostanza analizzare un po' quali sono stati i temi che hanno caratterizzato le tendenze di borsa recentissime, quali previsioni a brevissimo periodo si possono fare, perché abbiamo imparato da questa crisi che previsioni a lungo periodo è decisamente troppo azzardato farne. Volevo rispondere ad un ascoltatore che ci chiede una cosa che non c'entra niente stamattina, ma gli voglio rispondere in ogni caso. La sua banca gli fa resistenza per la surroga del mutuo dopo aver applicato uno spread al 3%. Posso mandarvi una mail? Certo, Roberto, che ce la può mandare. Salvadanaio @radio24.it, e come facciamo con quanti più ascoltatori possiamo, sicuramente cercheremo di dare qualche indicazione anche a lei. Trivelli, non le ho consentito di rispondermi sul settore auto. Sì, diciamo che il settore auto io in questa fase sono decisamente prudente, innanzitutto perché, come diceva il collega prima giustamente, è un settore ancora in profonda ristrutturazione e oggi forse alcuni problemi vengono un po' nascosti dalla politica di aiuti. Poi parliamo di settore, in verità poi abbiamo avuto andamenti molto diversi tra gli Stati Uniti, l'Europa e ancora all'interno dell'Europa, basta vedere da inizio anno abbiamo una Volkswagen a meno 50% e una Fiat a più 130% come performance. Ecco. Gli Stati Uniti in questo momento hanno grosse difficoltà proprio su tutto il settore, e quindi è un po' un'opportunità per l'Europa, il caso Fiat insegna, un mercato che si è molto aperto diciamo alle case estere, prima i giapponesi, ora molto di più gli europei. Credo che la grossa sfida però si farà sui mercati emergenti, che sono quelli che in questo momento stanno crescendo a doppia cifra, quindi sia in Sud America che nell'Asia. Per fortuna peraltro, perché esatto, Sennò qua saremmo allo scatafascio totale. Allora sì, ci fermiamo perché abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio. Poi c'è un altro tema che è sicuramente interessante affrontare, e per la verità me lo suggeriva Giuseppe Ganci questa mattina nella nostra chiacchierata preventiva alla trasmissione. Abbiamo visto quante aziende negli ultimi mesi ansia da liquidità, perché tra banche non ci si scambiava denaro e naturalmente le aziende dovevano comunque sostenersi per poter andare avanti con la politica degli investimenti, abbiano fatto ricorso a qualcosa di alternativo rispetto al canale del credito tradizionale, cioè per esempio all'emissione sul mercato di molte obbligazioni, e allora anche lì c'è stata una corsa naturalmente a questi strumenti di investimento. È stata una scelta giusta per coloro che l'hanno fatta, e soprattutto adesso è il caso di cominciare a pensare di liberarsi di un po' di questi strumenti di investimento per tornare gradualmente sulla borsa. A Salvadanaio questa mattina le nostre strategie di investimento alla luce di quelle che invece sono le strategie di investimento di gestori un po' più importanti. Stamattina a nostra disposizione e a vostra, soprattutto se lo vorrete, all'800 24 00 24, Giuseppe Ganci, senior analyst di Com- Compass Asset Management e Nicola Trivelli, direttore degli investimenti di Sella Gestioni. Ganci, le leggo quanto scriveva il collega del Sole 24 Ore Alberto Ronchetti lunedì su Lunedì del Sole 24 Ore. Gli investimenti obbligazionari non sono particolarmente sexy, ma restano una cintura di salvataggio da non sottovalutare, quindi conviene averli comunque in portafoglio. Al momento comunque non appaiono certo appetibili, quello che offrono in un anno può essere guadagnato in una o due sedute di borsa, e questa è l'analisi, come dire, neutrale, no? Ma forse non è un'analisi adatta ad un taglio da piccolo investitore. Che cosa ne pensa? E in ogni caso, che strategia state suggerendo magari ai vostri clienti in questo momento? Quanto tenere in portafoglio come obbligazioni societarie e quanto cominciare invece a spostare, a dirottare sul mercato azionario? Allora, diciamo che condivido, ma in parte, l'analisi del collega su Sole 24 Ore, perché diciamo, ovviamente ogni investitore deve fare così un atto di coscienza in con quanta volatilità riesce a digerire, con quanta quota del portafoglio riesce appunto a digerire quei movimenti da una o due sedute di borsa moltiplicato due o tre anni di borsa, perché sostanzialmente questo è il limite di ogni investitore che deve così fare questa presa di coscienza. Detto questo, noi a livello di casa per i nostri clienti stiamo consigliando di switchare parte dell'investimento in corporate bond in azionario. Switchare è banalmente un trasferimento in sostanza. Sì, sì. Diciamo spostare parte dell'investito dai corporate bond, obbligazioni societarie, quindi in azioni. La motivazione è molto semplice. Quest'anno è stato possibile ottenere dei rendimenti da azionario investendo nell'obbligazionario. Questo ha fatto sì che il differenziale di rendimento tra le obbligazioni societarie e le obbligazioni governative si sia già ristretto a livelli precedenti alla crisi di Lehman Brothers e anche qualcosina di più. Quindi, guardando ai prossimi 2-3 anni, ci possiamo aspettare dei rendimenti sicuramente positivi e sicuramente ben più alti delle obbligazioni governative, ma in uno scenario dove i tassi rimangono bassi, la liquidità continua a essere molto abbondante e che poi supporta le obbligazioni societarie, diventa ancora più interessante rientrare nelle borse con una quota, per chi non ha investito in borsa negli ultimi anni ed è uscito, buon per lui, prima della crisi o durante la crisi, e con una componente fino al 10-15% in un portafoglio diversificato o di fondi o di titoli, anche a livello di esposizione geografica, secondo noi è un buon momento. Ecco, ma questo switch, richiamiamolo come lo definite appunto nel gergo finanziario, secondo lei se qualcuno fosse tentato da questa strategia di investimento e volesse cominciare a liberarsi di qualche obbligazione societaria, secondo lei, e siccome credo che non valga, no, un discorso di carattere generale, quali settori è meglio cominciare ad abbandonare prima di altri? Ma i settori che vediamo sono stati prezzati oggi in maniera poco così remunerativa per un potenziale investitore sono quelli più difensivi, tipicamente le utilities, quindi parliamo di società che erogano, diciamo, servizi necessari per il funzionamento dell'economia, quindi elettricità, gas, anche le stesse società di distribuzione, produzione e distribuzione di prodotti petroliferi come l'Eni in Italia, o comunque tutte quelle società dove l'interesse nazionale è molto alto alla loro, diciamo, sopravvivenza e funzionamento. Quindi oggi queste società industriali molto grandi e importanti offrono sicurezza ma un rendimento poco più alto del governativo. E non dando comunque la sicurezza di un titolo governativo, perché sono pur sempre delle società che operano nel mercato e hanno delle strategie di crescita, acquisizioni che si muovono nel tempo, quindi possono alla fine presentare dei cambi di scenario anche molto importanti. E mentre c'è ancora del valore in titoli con scadenza un po' più lunga, quindi ci spostiamo dai 2-3 anni che tipicamente guarda l'investitore corporate ai 5-7, e settori industriali e anche titoli del settore bancario, però questo, diciamo, alla fine sposa la nostra tesi precedente, cioè si vanno a prendere più rischi per non fare mentalmente questo cambio di asset class, cioè questa classe di investimento che è l'azionario, che ancora oggi nella mente di moltissimi investitori è quasi un tabù. Lo so, d'altronde sa com'è, la scossa è presa un anno fa, è stata talmente pesante che ci siamo spaventati un po' tutti. Io tra l'altro già vedo il tempo sfuggirci di mano come al solito, allora sentirei Giovanni da Varese che ci obbliga qualche indicazione pratica per il suo portafoglio di investimento. Giovanni, benvenuto. Sì, buongiorno. Volevo sapere se avendo una certa disponibilità, una certa somma da investire, se lire 50.000, se potevo dividerla in un fondo nei paesi in via di sviluppo, America e Europa, dividerlo in tre con tre fondi che coprivano queste aree. È una posizione corretta la mia o c'è qualche altra sua mi può suggerire qualcosa? Sì, sentiamo Nicola Trivelli che cosa ne pensa. Peraltro chiaramente adesso possiamo dare delle indicazioni, sono estremamente generiche perché bisognerebbe conoscere un po' tutto, no? Il profilo di rischio del nostro ascoltatore Trivelli, però magari soffermandoci proprio così alla composizione indicata dal nostro ascoltatore alle aree che lui ha individuato, se ovviamente fatto salvo il principio che Giovanni ha già scelto una diversificazione e quindi ha avuto un approccio mediamente corretto, no, verso l'investimento. Per il resto queste aree lei come le suddividerebbe? Ma diciamo che se questa vuole essere la parte di investimento azionario e quindi lo riteniamo un investimento all'interno di un portafoglio più diversificato, quindi anche con una parte obbligazionaria e una parte eventualmente più liquida, noi riteniamo che la componente emergenti debba essere sicuramente una delle componenti che nel tempo deve avere un trend di crescita, proprio perché l'importanza di queste economie e la loro capitalizzazione sta crescendo molto, sono le aree più attive, in alcuni casi addirittura con una minore volatilità sulle valute rispetto invece abbiamo visto al dollaro o allo yen. Quindi sicuramente diciamo attendere un terzo di investimento sugli mercati emergenti per un portafoglio azionario lo riteniamo corretto. Sul Stati Uniti ed Europa mi sembra abbastanza corretto dividerlo in questa fase, proprio perché magari il dollaro è anche particolarmente debole. In un altro contesto io sconsiglierei di avere due terzi del portafoglio in valute diverse dalla valuta di riferimento, perché come sappiamo le valute sono forse la componente più rischiosa e più imprevedibile, e spesso magari l'investitore guarda l'andamento dei mercati e si ricorda dopo che aveva anche un rischio valutario, che può portare poi grosse perdite. Scopre appunto che magari il rendimento che si attendeva è stato del tutto vanificato invece magari da una prestazione nettamente contraria dalla valuta di riferimento. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto, ma io naturalmente vi risentirò prossimamente. Avrei voluto parlare del bond Telecom che arriverà sul mercato, comunque questo avremo tutto il tempo di farlo perché non arriverà prima di qualche mese, ma magari anche così fare qualche previsione sul settore energetico, visto che il petrolio ci ha condizionato tanto negli ultimi giorni. Non siamo riusciti a farlo, ma Salva Danaio tornerà puntuale su questi argomenti al più presto. Io intanto ringrazio Giuseppe Ganci e Nicola Trivelli per essere stati con noi, vi auguro buon lavoro. Noi abbiamo terminato, Salva Danaio torna domani, buona giornata a tutti. Salva Danaio.